piano. Di Enrico Ruggeri. Un giorno ho fatto quattro chiacchiere con Blatter, che mi raccontò del fatto che quando ci furono i mondiali di calcio negli Stati Uniti, alcuni delegati statunitensi dissero: che bella la finale, 9 gol. In realtà la finale era finita 0-0 e poi avevano tirato i calci di rigore, quelli che l'Italia sbagliò. Questo per dirvi quanto gli americani siano poco propensi ad innamorarsi del calcio, eppure ci hanno provato in tutti i modi a introdurre il calcio negli Stati Uniti. Chiamarono a suo tempo Pelé, Chinaglia, e anche oggi grandi campioni vanno in America a giocare a pallone, però non c'è niente da fare. Gli sport che gli americani amano sono altri sport legati alla loro cultura. Intanto il baseball, che si pratica dall'Ottocento, simbolo di patriottismo, di unione. Poi naturalmente c'è il football americano, che ha il suo culmine nella serata del Super Bowl, e lì gli Stati Uniti si fermano. Poi c'è l'hockey su ghiaccio, che è praticato negli Stati del Nord ma che è seguito anche negli altri posti d'America, e poi naturalmente c'è il basket, che è lo sport nel quale soprattutto gli afroamericani si riconoscono di più. Ci sono giocatori che diventano dei simboli, degli esempi per i ragazzini, quelli che giocano in quei campetti incastrati tra i grattacieli a New York o nel giardino di casa. Quanti film abbiamo visto con un canestro e gente che tira a canestro. Bene, attorno a tutto questo movimento ci sono naturalmente dei grandi, degli idoli, degli esempi. Ecco, oggi parliamo proprio di una di quelle grandi stelle del basket americano, che è diventato un'icona di questo sport. Alto 2 metri e 18 centimetri, con i suoi occhiali inconfondibili. Oggi parliamo di Kareem Abdul-Jabbar. Questo è il jingle più famoso del mondo dell'NBA, il campionato di basket professionistico americano, dove ogni anno si sfidano le grandi squadre della East Coast e della West Coast fino alla finale, che si gioca al meglio delle 7 partite. Un'altra cosa particolare di questo campionato è che nessuno retrocede. Se hai i soldi partecipi, se no no. Questo insomma per dire come ragionano da quelle parti. Nella costa est, la Eastern Conference, ci sono i Boston Celtics, i Chicago Bulls, i Detroit Pistons. Poi c'è la Western Conference e lì ci sono i Portland Blazers, San Antonio Spurs e naturalmente la squadra più rappresentativa forse di tutti gli Stati Uniti, i Los Angeles Lakers, con la inconfondibile canotta gialla e viola. Ecco, giocare in quella squadra, anche in altre squadre naturalmente, ma in quella squadra per molti ragazzini americani è il sogno. Però gli americani ci credono che si possa realizzare questo famoso sogno americano. Viene incentivato con borse di studio che permettono ai giovani più promettenti di frequentare le migliori università del paese, studiando appena appena, insomma quel tanto che basta per mantenere il posto nella squadra sportiva universitaria. E questo è quello che è capitato al piccolo Ferdinand Lewis Alcindor Jr., un ragazzino nato a New York, figlio di un poliziotto e di una commessa di un supermercato. In realtà la parola piccolo non è azzeccatissima, perché lui alla nascita è già lungo 57 centimetri e pensate insomma cosa si poteva pensare il 16 aprile del 47, il giorno della sua nascita, di un bambino così fuori norma. E a 9 anni Lewis Alcindor, in realtà non Alcindor, è alto 1,73 m. A 14 anni raggiungerà i 2 metri. Un ragazzino di colore in un quartiere pieno di immigrati irlandesi. Insomma, è difficile passare inosservati. Tutti lo chiamano il lungo bambino nero. È inevitabile il suo avvicinamento al basket. Quando inizia a frequentare le scuole superiori, diventa l'elemento più importante della squadra della scuola. Mi ricordo di aver letto delle parole di Charles de Gaulle, che era un uomo alto, e diceva che le persone piccole possono sgattaiolare tra la folla, mentre le persone alte sono immediatamente identificabili ed ogni loro comportamento o apparizione è evidente a tutti, e devi cercare di stare insieme agli altri senza isolarti. È una cosa che mi ha sicuramente influenzato e mi ha reso un po' più timido rispetto a quello che sarei stato se avessi avuto una statura media, se fossi stato semplicemente uno dei ragazzi. E negli Stati Uniti il livello di competizione è altissimo, è esasperato, lo sapete, insomma sia successo solo se si dimostra di essere dei vincenti, questa parola terribile che tanti danni ha fatto. Comunque Lewis non fa fatica a farsi accettare dai compagni di squadra, ovviamente lo fa a colpi di canestro, gioca per la Power Memorial Academy e gli viene affidato un soprannome, The Tower of Power, la Torre del Potere. La squadra partecipa al campionato cattolico di New York, per 3 anni consecutivi vince il campionato, lui segna 2067 punti, è un record che nessuno ha battuto, probabilmente nessuno batterà mai a 16 anni lui. I giornalisti cominciano a pressarlo per le prime interviste e gli chiedono per esempio in quale università vorrà proseguire gli studi, e lui ha diritto, come tutti gli studenti che eccellono in una disciplina sportiva, ha delle borse di studio e ha la possibilità di scegliere, sceglie di iscriversi a una delle scuole più prestigiose. Il coach Wooden era considerato uno dei migliori allenatori in circolazione e la UCLA era descritta come un'università di prima scelta, dove potevo trovare sia un'ottima squadra sia un'istruzione di alto livello. Credo che lui riuscisse a capire dove stesse il successo e volesse farne parte, e questo è quello che ho cercato di fare anche io. Siamo nel 65, John Wooden è considerato il più importante allenatore della NCAA, la lega che raggruppa tutte le squadre dei college universitari americani. È un campionato nel quale si formano tutti i grandi campioni, una specie di cantera, tutti quelli che aspirano a passare all'NBA, cioè al campionato professionistico, devono giocare lì. Anche Lewis Alcindor insegue questo sogno, le premesse per cui lui possa raggiungere questo obiettivo in realtà ci sono già, e lui fin dal primo anno di università si fa notare per il suo stile di gioco e intanto continua a crescere, ha superato i 2,10 metri, la sua corsa diciamo così verso l'alto si concluderà solo nel 69 quando si stabilizzerà sui 2,18, insomma la sua altezza gli permette di arrivare laddove i suoi compagni di squadra non arrivano. Le sue partite sono una esibizione continua di schiacciate, segna 30 punti a partita di media, è imbattibile ovviamente anche nei rimbalzi, arriva prima in cielo, così nella stagione 66-67 arriva il primo dei 3 titoli consecutivi alla NCAA a fine stagione. Per cercare di arginare il suo strapotere assoluto viene varata una nuova regola che rimarrà in vigore per 10 anni, insomma viene vietata la schiacciata e questo viene fatto soltanto per indebolire la squadra della UCLA e la sua punta di diamante, cioè per arginare il suo strapotere tecnico e soprattutto fisico. In realtà questa restrizione di regolamento è propedeutica per lui, perché lui va alla ricerca di un nuovo tiro per far canestro con sicurezza sfruttando la sua altezza di 2,18 m. Si chiama skyhook, questo tiro consiste nel lanciare la palla con le spalle a canestro compiendo un movimento del braccio simile a quello di un uncino hook appunto, e in italiano lo conosciamo perché Dan Peterson coniola l'espressione gancio chair e diventerà un marchio di fabbrica di Alcindor. È un colpo è indifendibile perché la palla si stacca dal braccio a un'altezza di oltre 2,5 metri e quindi è irraggiungibile per i difensori. Nixon, Magic Johnson and Kareem. Ford sends it to Kareem. Sky hook up and good. Lakers win. Score it. Kareem Abdul-Jabbar has given the Los Angeles Lakers a victory. And Magic Johnson is out there celebrating like they just won the NCAA championship. How about Honey is out there? We've got Magic Man and Kareem Abdul-Jabbar. Abdul-Jabbar just threw a tremendous hook shot. Bisogna ricordare che siamo nel 1968, gli Stati Uniti stanno vivendo un momento di cambiamento, un momento anche traumatico, è stato ammazzato Robert Kennedy, Martin Luther King, ci sono state le elezioni di Nixon, c'è la guerra in Vietnam, insomma i giovani americani sono esasperati, protestano e protestano ancora di più le persone di colore perché è ancora molto forte la discriminazione razziale e quindi Lewis vive questo conflitto interiore e lo vive con 2 azioni importanti, dei veri e propri colpi d'ala che incidono sulla sua vita. Intanto nell'estate del 68 lui abbraccia l'Islam e soprattutto cambia nome, così come aveva fatto Cassius Clay, diventa Karim Abdul-Jabbar, che significa pressappoco nobile servo dell'Onnipotente, però inizierà a usare pubblicamente questo nome solo a partire dal 1971. Poi c'è un altro colpo d'ala, è un gran rifiuto, perché ci sono le Olimpiadi di Città del Messico, lui ovviamente è tra i convocati, e sono le Olimpiadi nelle quali Smith e Carlos vinsero, cioè andarono sul podio con una protesta molto clamorosa, ricordate, ne abbiamo parlato. Insomma, anche lui prende una posizione molto netta, perché Karim Abdul-Jabbar decide di dire no alla nazionale, di dire no a quelle Olimpiadi, è un gesto di grande coraggio, insomma sappiamo bene quanto sia importante per un atleta la chiamata alle Olimpiadi. Lui ha deciso, non vuol far parte di una squadra che rappresenta un paese in cui le differenze razziali sono ancora una barriera per la normale convivenza tra gli americani, che sono sì uniti da una bandiera, ma sono ancora molto molto divisi. Sono nato Lewis Alcindor, oggi sono Karim Abdul-Jabbar. Il passaggio da Lewis a Karim non è stato un mero cambio di nome dettato dalla celebrità, ma una trasformazione della mente, del cuore e dell'anima. Ero il pallido riflesso di ciò che l'America bianca si aspettava da me. Oggi sono Karim Abdul-Jabbar, la manifestazione della mia origine africana, della mia cultura e della mia fede. Insomma, parole di grande coraggio, e per molti americani questo rifiuto è uno sgarbo imperdonabile, però sul parquet del campo di basket scompaiono tutte le polemiche, perché quando Karim Abdul-Jabbar entra in campo e colpisce con il suo gancio cielo, tutto gli viene perdonato, e così su di lui si posano gli occhi degli osservatori dell'NBA che cercano delle prime scelte per la stagione che deve iniziare, e su di lui puntano anche gli occhi gli Harlem Globetrotters, lo sapete, la squadra che unisce il gioco del basket allo spettacolo, che raccoglie talenti del basket e li trasforma in star. Ma lui non vuole diventare un fenomeno da baraccone, comunque un giocoliere che non gioca per la vittoria ma semplicemente per fare delle esibizioni. Insomma, si mette sul mercato, ci sono almeno tre squadre dell'NBA che vogliono aggiudicare questo lungo ragazzo nero che ha inventato il gancio cielo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Lewis Alcindor, la leggenda di basket americano che dopo la conversione all'Islam ha cambiato nome in Karim Abdul-Jabbar. Vince tre campionati consecutivi all'università di UCLA, poi ha la possibilità di entrare nell'NBA, il campionato professionistico, per far vedere a tutti lo skyhook, il gancio cielo, il tiro infallibile con cui ha stabilito i record di punti in tutti i campionati finora disputati. Nell'aprile 1969 si svolgono i draft, è un periodo nel quale le squadre dell'NBA provano i nuovi giocatori che non hanno ancora un contratto. Lui, Karim, che per ora viene chiamato ancora col suo nome cattolico, Lewis Alcindor, è in lizza tra tre squadre: Milwaukee, Phoenix e New York. Alla fine la spuntano i Milwaukee Bucks, se lo aggiudicano per $1.400.000. Pensate che negli stessi giorni lui aveva ricevuto un'offerta dai New York Nets di quasi il doppio. Lui declina quell'offerta, risponde semplicemente che una guerra al rialzo degrada le persone. Dice: io non voglio sentirmi come un pezzo di carne in vendita. Questo, insomma, per dire la differenza con i calciatori di oggi. Ci sono delle eccezioni, ma insomma normalmente oggi il calciatore che offre di più se lo prende. E Jabbar vince il suo primo titolo NBA a Milwaukee in stagione 70-71, segna 2.596 punti, una media di 31 punti a partita, viene nominato miglior giocatore del campionato, cosa che accadrà altre due volte nei 4 anni successivi. Però lui non è solo un uomo di sport, intanto si è laureato in storia, quindi non ha fatto l'università pro forma, e poi ha molti interessi al di fuori del basket, conosce le le arti marziali, che ha imparato direttamente come allievo di Bruce Lee, poi pratica lo yoga, conosce il jazz, studia, è in perenne desiderio di aumentare la sua cultura. Milwaukee però è una città gelida che si affaccia sui laghi del nord, insomma non è una città che offra molto a parte Happy Days. Così dopo 5 stagioni trascorse a Milwaukee, Jabbar chiede di essere ceduto a New York o a Los Angeles, città più vive anche dal punto di vista culturale. Avrei voluto andare a giocare a New York, è sempre stato il mio sogno sin da bambino, ma i Lakers mi hanno fatto capire di essere veramente interessati a me e mi hanno fatto sentire come a casa mia. E così Kareem Abdul-Jabbar indossa la mitica canotta gialla e viola dei Los Angeles Lakers e con il numero 33 non la toglierà più, indossa già i suoi grandi occhiali protettivi, lo fa da quando ha subito una lesione alla cornea all'università, però quegli occhiali e quella canotta sono destinati a diventare uno dei simboli del basket moderno. Le prime stagioni con la maglia gialla dei Lakers non portano titoli, lui segna a ripetizione, vince altri 2 anni il trofeo MVP, cioè il trofeo come miglior giocatore dell'anno, però i Lakers non ce la fanno a vincere il campionato, non basta la sua altezza, non basta la media punti, la squadra ha bisogno di un playmaker che sappia organizzare l'attacco, il regista, quello generalmente un po' più basso degli altri che però ha una visione di gioco completa. Così nel 79 arriva un altro fuori classe, si chiama Ervin Johnson, detto Magic Johnson, è un altro destinato a rivoluzionare il mondo della pallacanestro e lui ha subito una intesa perfetta con Jabbar. Molte delle partite dei Lakers cominciano a essere risolte con uno schema molto semplice: Magic Johnson che passa la palla a Kareem e Jabbar fa canestro, fine. The 24 is at 7. Magic over to Worthy. Worthy in deep. Give to Kareem. Here he comes. Worthy set that up so beautifully. What a Kareem go high into the air to throw that one down. Yes, 1980 arriva il settimo titolo NBA per i Lakers, il precedente risaliva al 72. Magic Johnson diventa pedina fondamentale per far arrivare a Kareem Abdul-Jabbar quei palloni che lui butterà a canestro, insomma nasce il mito dei Lakers. Sono anni nei quali i principali rivali sono i Philadelphia e i Boston Celtics di Larry Bird, un altro grandissimo, e i Lakers vincono altre 4 volte il titolo con in campo Kareem Abdul-Jabbar, 82, 85, 87, 88. Quando nell'89 Jabbar, a 42 anni suonati, decide di ritirarsi, se ne va dopo aver segnato 38.387 punti, un record che per ora nessun giocatore è riuscito a battere e mi sa che è un record che resisterà molto a lungo. Il 13 giugno 1989 Jabbar gioca la sua ultima partita quando viene sostituito, alla fine gli viene tributato un lunghissimo applauso, tutti si fermano, lui saluta, ringrazia uno per uno tutti i giocatori in campo, molti piangono, peraltro cosa anomala, insomma, per un giocatore che non si è mai mostrato sorridente in pubblico, anzi molti lo hanno considerato uno scorbutico, un solitario, l'opposto di Magic Johnson che era sempre sorridente. Però Kareem Abdul-Jabbar è diventato una leggenda nell'NBA, il suo ritiro lascia un vuoto incolmabile. Il Falco e il Gabbiano. Per addentrarmi ulteriormente nel basket e nel nostro protagonista, con la grande umiltà che mi contraddistingue, ho bisogno di qualcuno che le sappia molto più di me, e sto parlando di un giornalista, di uno scrittore, di un telecronista di Sky, del grande Flavio Tranquillo. Buongiorno Flavio. Buongiorno, ma se cercate uno che ne sa di più avete sbagliato numero, però per cortesia rispondo allo stesso. No, non fare il modesto. Senti, stiamo parlando di Kareem Abdul-Jabbar e quindi intanto vorrei sapere cosa ha rappresentato per te Kareem per il basket moderno. Beh, ha rappresentato tantissime cose in campo, è stato un giocatore di 2018 in un'epoca in cui di solito i giocatori di 2018 dominavano o comunque erano importanti in quanto molto alti e molto grossi, punto. Lui era molto alto, non necessariamente molto grosso, straordinariamente tecnico, è stato il primo che è riuscito a dominare non solo e non tanto grazie all'altezza, ma proprio grazie alla sua capacità di essere una parte integrante del gioco. È vero che è quello che ha sempre più punti nella storia dell'NBA, ma quelli sono davvero solo la punta dell'iceberg. Eh sì, perché ci sono dei cestisti, correggimi se sbaglio, che sono molto alti ma un pochino goffi, cioè un po' poco agili. C'era mi ricordo un cinese tempo fa che era altissimo ma non aveva, come dire, quel modo scattante che è indispensabile nel basket moderno. Lui lo era invece. Lui lo era, tutta una serie di giocatori che ieri sono stati importanti e oggi non potrebbero o non possono letteralmente stare in campo perché la velocità, anche se poi la velocità è un concetto che andrebbe precisato meglio su un campo da basket, ma diciamo per capirci la velocità fa premio sicuramente sulle dimensioni. E poi è comunque il basket uno sport di destrezza e di tecnica, e la tecnica di Kareem Abdul-Jabbar era incredibile. Senti, veniamo all'uomo. Lui non è andato a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona, eppure un posto lo avrebbe avuto ovviamente, e quindi entriamo in un altro campo, cioè il Kareem specchio di quegli anni che in qualche modo si sente giustamente, si fa carico di una ideologia, di una comunità, di molte pulsioni. Ecco, che uomo era da questo punto di vista? Mi piace dire che uomo è, che non esito a definire una guida in un momento così difficile. È un afroamericano di grandissimo orgoglio, ma che è molto capace, denunciando tutte le questioni che hanno a che fare con le situazioni di svantaggio per gli afroamericani, di riuscire sempre a tenere il punto, di riuscire a essere rigoroso, di riuscire a inquadrare storicamente, fattualmente tutto quello che dice. È un uomo di una cultura sterminata, non un uomo facile, non un uomo facile per nulla. Però, ripeto, letteralmente una guida quando scrive, quando parla e quando riesce a mettere in fila le cose con grande freddezza. È vero, dicono che se non avesse fatto il cestista avrebbe fatto il professore di storia, è probabile. Lui lo ha scritto in un libro in cui ha ricostruito una delle tante storie che altrimenti sarebbero andate perse, la prima squadra professionistica di neri negli anni 30 a New York. Lui dice, sì, ho fatto il cestista, ma avrei voluto fare professore di storia. Non ci sono limiti, probabilmente avrebbe anche potuto fare il musicista, ma non aveva il talento del padre. Però è un grandissimo esperto. Uno che avrebbe premeggiato, certo. Torniamo al basket. I Lakers in questo momento insomma, sono un po' in crisi. Recentemente c'è stato un abbraccio, non dico un passaggio delle consegne, ma insomma un gesto di grande affetto tra lui e LeBron James prima di una partita. E cioè, lui è carismatico anche dopo il ritiro, come dire Zanetti nell'Inter o i grandi giocatori che rimangono capitani anche quando non giocano più in qualche modo. Ma io direi che Zanetti è un giocatore o comunque una persona empatica. Sì. Non direi che Abdul-Jabbar sia una persona empatica, è una persona che quando entra in una stanza incute rispetto e anzi semmai ti fa pensare ma dove ho sbagliato, che cosa ho fatto. Però se riusciamo ad andare un po' al di là di questo dato, che peraltro è importante perché ti aiuta a creare un primo rapporto, allora il carisma è il dubbio e il rispetto che ha soprattutto da parte dei suoi colleghi afroamericani, che sanno che lui ha fatto, fa e farà una serie di cose per cui la loro vita professionale e non ha una qualità migliore. Flavio, meno male che hai detto che ne sapevi poco, hai salvato questa puntata. Un abbraccio e grazie, a presto. A voi, posso dare un ultimo consiglio? Sì. È uscito adesso un libro, non l'ho scritto io, quindi non c'entra niente, sì. Che si chiama Wooden and Me, in cui Kareem Abdul-Jabbar racconta che è la sua fonte di ispirazione principale, il suo allenatore al college, sì, bianco di 1,78 m, sì, del Midwest, dove c'era il Ku Klux Klan quando John Wooden, il suo allenatore, cresceva. Certo. Quindi una storia di grande spessore, direi anche di speranza in questo Bello. Momento. Grazie mille. Grazie. Ciao Flavio, ciao. Saluti, ciao ciao ciao. E dopo il ritiro dal basket, Kareem Abdul-Jabbar si dedica a un'altra sua grande passione, la storia. Scrive libri su personaggi della vita afroamericana degli Stati Uniti, come per esempio la storia dei New York Renaissance, la prima squadra di basket interamente composta da giocatori di colore, ovviamente di New York, e New York è sempre stata, insomma, molto più avanti rispetto al resto degli Stati Uniti. Poi si è dedicato alla politica, ha sostenuto la campagna di Barack Obama, ha osteggiato fermamente l'ascesa del presidente Trump. Nel 2012 è diventato ambasciatore culturale degli Stati Uniti, cosa da rilevare anche perché lui è di religione musulmana, quindi questo negli Stati Uniti assume un significato superiore di questi tempi. E poi c'è un cameo fantastico dell'Italia che ricordo molto bene, lo ricordate anche voi sicuramente, è il cameo del copilota nel film L'aereo più pazzo del mondo. Volo 209 a torre di controllo, stiamo raggiungendo quota 14.000 metri, ci rimetteremo in contatto a Lincoln, passo e chiudo. Aspetta un minuto, ma io ti conosco. Certo, sei Kareem Abdul-Jabbar, un giocatore di pallacanestro della squadra dei Los Angeles Lakers. Ah, mi dispiace ragazzo, ma mi hai confuso con qualcun altro. Il mio nome è Roger Murdock e sono il secondo pilota. No, tu sei Kareem, ti ho visto alla partita. Mio padre ha anche la tessera annuale. Sai, tu sei il mio giocatore preferito. Discuto sempre con papà perché lui dice che in difesa non vale un cavolo. Papà dice anche che certe volte ti risparmi un po', che non ti impegni, che giochi in pieno solo se si tratta di una partita di eliminazione. Col cavolo che non mi impegno. Senti ragazzino, mi ripetono queste stronzate da quando ero all'università. Ogni sera mi fracassano le palle e non è divertente, sai? Dì a papà che ci provi lui a marcare cristoni grandi e grossi per 48 minuti. Oggi Kareem Abdul-Jabbar ha 70 anni, sa che il basket moderno è cambiato, è praticamente scomparso il gancio cielo, lo skyhook, quello che ha fatto la sua fortuna. Oggi si preferisce la potenza alla tecnica, però con la potenza nessuno è ancora riuscito a segnare più di lui in tutta la carriera. Una storia non solo di basket, colpi d'ala legati anche a precise convinzioni di un uomo vero, uno che ha saputo approcciarsi al mondo dello sport valorizzando quello che lui rappresentava a vantaggio della sua gente e anche del suo accrescimento interiore. Noi vi aspettiamo con altre storie e segnalateci al falcoilgabbiano@radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure seguitemi sul sito di Radio 24, sui miei social, sui nostri social, insomma se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.